Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Luca Tremolada al microfono, buon pomeriggio e ben arrivati. Oggi parliamo di Watchdog, bellissima puntata contro i cattivi, contro chi inquina, contro l'amministratore locale un po' disonesto, contro tutti coloro che pensano di passare inosservati. Invece devono sapere che c'è un esercito di telecamerine, di cittadini con la telecamerina in mano, che li osserva, che li spia, che li interroga, che li intervista, che crea indagini e le pubblica su internet. Vero Coletti? Noi siamo in collegamento con Giampaolo Coletti, che è il nostro autore e massimo esperto di Web TV e che oggi ci racconta una storia di televisioni che fanno il mestiere dei giornali, no? Buon pomeriggio Luca, sono televisioni però anomale, create da cittadini videomaker per passione, che in realtà di giorno fanno altro, studenti, pensionati, e poi la sera imbracciano la telecamera e montano e filmano quello che non va in particolari contesti territoriali. E poi cosa fanno? Vanno dall'amministrazione comunale locale e portano all'attenzione i problemi di quello specifico territorio. Tra l'altro stavo leggendo, c'è nel milanese c'è Urban Bastards che invita gli utenti a postare foto che ritraggono veicoli SUV fermi sulle strisce pedonali. Mi fai altri esempi? Beh, a Milano abbiamo gli Urban Bastards, però abbiamo in realtà a Padova muri puliti, soprattutto nella zona del centro storico, vicino all'università. Un gruppo di cittadini filma le immagini di portoni e di edifici danneggiati dai rioters e poi pubblica tutto, upload appunto i filmati online. Ma ce ne sono davvero decine di queste storie. Pensiamo ad esempio a Reggio Emilia, dove in via Guido da Castellano, qui ci vuole il nome e il cognome, al numero 16, un gruppo di cittadini realizza un telecitofono, una sorta di videobox all'interno di un citofono. I cittadini vanno lì, uploadano la denuncia, quello che non va nel proprio territorio, e poi questi materiali vengono spediti al sindaco di Reggio Emilia. Ecco, qui invece in studio a Milano abbiamo Pietro Don Marco di Hola Channel. Sentiamo chi è nella scheda realizzato da Giampaolo Colletti. Pietro Don Marco è un trentenne laureato in sociologia all'Università di Napoli. È nato a Lavello, una cittadina nel nord della provincia di Potenza. Insieme ad altri giovani lucani ha creato un movimento che irradia le sue battaglie da una micro web TV. Pietro è l'ideatore di Hola Channel. L'acronimo sta per Organizzazione Lucana Ambientalista. Si aderisce come entità associativa. Circa 250 associazioni della Basilicata vi hanno preso parte, quasi 5.000 iscritti, tutti volontari. Le battaglie sono videodocumentate per tenere d'occhio l'operato degli amministratori. Nei videoreportage si denuncia l'inquinamento delle falde acquifere dell'inceneritore La Fenice, dell'area industriale Val Basento e della discarica di Venosa. 800 24 00 24, se volete intervenire per denunciare o per dire di avere una televisione via una web TV che denuncia fatti e cose. 349 238 6666 se volete semplicemente scoprire come funziona. Don Marco, allora, buon pomeriggio. E la tua storia, insomma, Hola non nel senso di Hola, cioè del gesto no. calcistico, ma nel senso di combattenti ambientali. Ambientalisti e dissidenti soprattutto. Addirittura, ma qual è la storia? Cioè, quali sono le battaglie che fate? Che fate nella pratica? Nella pratica noi ci occupiamo di osservare. Nella scheda, insomma, che mi ha anticipato, devo dire, era esattamente quello. Cioè, noi nasce Hola Channel nasce come osservatorio sul territorio e soprattutto osservatorio sulle amministrazioni. Noi e sulle amministrazioni, sugli imprenditori che hanno investito in Basilicata ed investono in Basilicata e che inquinano purtroppo. Quindi voi andate con le telecamere, sì. Raccontami uno o due di questi fatti. Noi per esempio, come anticipato, ci siamo occupati della questione dell'inquinamento provocato dall'inceneritore EDF Fenice di Melfi. con un inquinamento gravissimo delle falde acquifere, che poi abbiamo scoperto protrarsi da più di un anno nel più assoluto silenzio istituzionale e di chi, insomma, chiaramente doveva garantire la sicurezza pubblica. Noi abbiamo fatto un filmato. Abbiamo realizzato un filmato andando, insomma, ad intervistare persone sul posto. Certo. Rendendoci conto, abbiamo chiesto cosa succedeva, qual era il problema principale di questo inceneritore, e siamo passati da questo inquinamento delle falde acquifere ad apprendere addirittura, insomma, dei fumi neri che spaventavano la popolazione. Nelle aree la limitrofe ci sono delle attività agricole, quindi avete sostanzialmente documentato tutto quanto da buoni giornalisti e l'avete pubblicato. E l'abbiamo pubblicato sul sito. Le reazioni quali sono? Le reazioni sono state, diciamo, il silenzio, diciamo, quindi non c'è stata nessuna risposta, perché noi sollecitavamo le amministrazioni ad un intervento. Devo dire che l'unico sostegno che abbiamo avuto, oltre a qualche comitato locale, è giusto, insomma, dirlo, sono stati i radicali lucani, si sono impegnati tantissimo per, insomma, e quindi una parte politica ha risposto. Abbiamo scoperto, insomma, abbiamo scoperto appunto che c'era questo inquinamento che si protraeva da un anno. Ad oggi non abbiamo ancora nessuna risposta da parte delle amministrazioni. L'unico che ha risposto è stato, a parte il sindaco di Melfi, che si è impegnato chiaramente, per la risoluzione del problema, ha risposto Fenice, autodenunciandosi. Insomma, ti sei fatto un sacco di amici, ecco, sì, abbastanza. A sentire un breve estratto di quello che viene pubblicato sul vostro sito, che a loro volta è pubblicato sul Twitter di Novalab. L'industrializzazione doveva servire per creare posti di lavoro. Oggi cosa possiamo dire nel 2009? Che i 3.500 lucani continuano comunque ad andarsene e comunque a spopolarsi. La più grande ricchezza che, voglio dire, una regione, un territorio, un comune, no, può avere è per forza la forza degli abitanti, la forza lavoro, la forza delle idee, cioè è la gente. Più gente ci abita, più possibilità c'è di comunicare, di trasferire. Ecco, ci racconti bene che cosa stava andando in onda. Questo era un servizio di approfondimento sulla Val Basento. Sulla Val Basento, che è una delle tre aree industriali che abbiamo in Basilicata, la più storica, l'area industriale storica, la più antica, voglio dire, e soprattutto quella più conosciuta, considerando che negli anni 50 Mattei ha scoperto il gas, insomma, e conseguentemente il petrolio in Val Basento. Noi raccontavamo l'inquinamento che si protrae da decenni in quell'area. Ricordiamo che la Val Basento è un'area industriale, sito di interesse nazionale, soggetto a bonifica urgente, talmente tanto urgente che sono 20 anni, insomma, che siamo in attesa di bonifica. Ecco, Colletti, com'è che si inserisce l'esperienza di Ola Chan all'interno di questo tessuto estremamente diversificato come quello delle web TV? Ola Channel è una delle centinaia di sentinelle radicate sul territorio. Ola Channel, tra l'altro, nasce in provincia di Potenza. La forza di questo fenomeno tutto italiano è che in realtà queste micro web TV, questo videoblog creati appunto dai cittadini, nascono in contesti lontani dalle metropoli, quindi non Roma-Milano, ma piccoli agglomerati urbani, dai paesi alle piccole città. Le regioni più virtuose sono Emilia-Romagna, sicuramente il Veneto, la Puglia, e poi abbiamo notato un fenomeno in crescendo, per esempio in Abruzzo. Complice anche la tragedia del terremoto, molti cittadini sono diventati sentinelle sul territorio, quindi diventano quasi davvero un filo diretto con l'amministrazione locale, si crea questo contatto. Ecco, prima di passare a un'altra televisione, cioè queste realtà italiane come si confrontano con l'estero? Cioè, anche all'estero esistono questa nuova generazione di videomakers che sostanzialmente, a me piacerebbe tanto che combattesse il crimine, ma poi di fatto fanno anche dei servizi di utilità. Ecco, no, la forza è proprio che sono micro web TV nel senso micro più nobile, cioè si occupano della quotidianità, di ciò che accade sotto casa, quindi valorizzano quell'aspetto che magari i media generalisti e forse anche la politica nazionale trascura, il problema sotto casa. Un monitoraggio lo abbiamo realizzato con il portale interuniversitario altratv.tv, lì c'è una mappa con tutte le esperienze dal basso, e in realtà è tutta una via prettamente italiana, perché il fenomeno all'estero è gestito molto spesso da giornalisti professionisti. Qui in realtà invece ci sono cittadini che si armano di telecamera e in maniera del tutto amatoriale per passione documentano quello che accade. Davvero una missione sociale dei vari territori italiani. Ecco, passiamo da Potenza, andiamo a Pordenone. Abbiamo in collegamento Francesco Vanin di PN Box. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sentiamo anche per lei una scheda che riassuma insomma chi è lei e che cosa fa. Francesco è un imprenditore anomalo. È il microeditore di una web TV cittadina, pnbox.tv, canale che ha acceso con alcuni suoi amici. Per alcuni mesi, nella fase di startup del progetto, Francesco ha disseminato in ogni angolo di Pordenone 30 lavatrici dismesse, donate da un'azienda della zona. D'altronde, le lavatrici sono il simbolo di questo territorio industriale. Lavatrici come icone per raccontare la nuova web TV vicina alla gente. Ma c'è di più. Francesco, con la sua PN Box, ha deciso di trasmettere per intero tutte le sedute del Consiglio Comunale di Pordenone, grazie a un accordo con il Comune stesso, e di irradiare anche un nuovo formato TV, Progetto Comune Street. Con la sua telecamerina semiprofessionale, va in giro per le strade chiedendo ai cittadini di postare le domande al sindaco, che successivamente risponde. Ma tutte le sedute, cioè io so che le sedute comunali sono di una noia feroce. In effetti, però posso darvi anche qualche dato. Allora, la prima cosa che facciamo, siccome effettivamente i consigli comunali sono difficili da digerire tutti in un colpo, quello che facciamo noi è di andare con due telecamere, di montare i servizi, i consigli comunali, ciascun servizio comunale e ciascun, scusate, consiglio comunale suddiviso per mozione, delibera, interrogazione, votazione, di modo che il cittadino possa guardarsi soltanto la parte che gli interessa. Ah, beh. E quindi diciamo dalle 4-5 ore che è la durata media di un consiglio comunale, alla fine ci si riduce, si ha la possibilità di guardare soltanto i 10 minuti o il quarto d'ora che può essere utile per i propri interessi. Ecco, questo come, è un aspetto. Come è stata presa dai consiglieri questa diciamo radio radicale, perché poi era radio radicale che aveva messo i microfoni in Parlamento, questo diventa un po' una visione riveduta e corretta in chiave webcam. Diciamo che è un chiave un po' moderna, anche perché appunto abbiamo definito il consiglio comunale all'unanimità. Quindi maggioranza e opposizione hanno votato a favore di questo servizio per la collettività. Noi siamo, ci tengo a sottolinearlo, pagati dall'amministrazione comunale, ormai siamo al terzo anno, per dare questo servizio alla collettività. E è chiaro che lo stiamo facendo in chiave web, vale a dire on demand, vale a dire che tutti i consigli comunali, suddivisi appunto in tutte queste mini clip, rimangono nella nostra televisione, sono linkate al sito del Comune di Pordenone per N anni. Ecco, è un servizio molto importante perché è possibile commentare i consigli comunali, vale a dire che qualsiasi cittadino può dire la propria relativamente a un argomento. B, sì, ovviamente essendo on demand si possono vedere quante volte lo si voglia, poi non so chi voglia farsi così del male da vedersi molte volte lo stesso spezzone. Ecco, quindi per essere un po' trasparenti, visto che una delle principali caratteristiche del web deve o dovrebbe essere la trasparenza, insomma capire un attimino chi ci paga e per che cosa, voi siete pagati dal comune per trasmettere i consigli, esatto, comunali, e poi chiedete dei soldi anche ai cittadini o no? No, assolutamente no. La televisione è totalmente gratuita, oggi è la più grande mediateca della provincia di Pordenone con oltre 3.500 filmati a disposizione di tutti. E lì dentro potrete trovare dall'avvenimento culturale alle promesse o alla campagna elettorale del dell'aspirante sindaco che poi è diventato sindaco, e lì però le promesse rimangono, quindi il programma elettorale rimane, e quindi chiunque può verificare, come chiunque può verificare che l'attività di un consigliere all'interno del consiglio comunale, digitando il suo cognome, verranno fuori tutti i suoi interventi relativamente a tutti gli argomenti che ha proposto, perché diciamo è un modo molto democratico e diretto per poter capire se qualcuno che ci sta governando ci sta governando bene. Questo è poco ma è sicuro. Stia lì un secondo, perché voglio richiamare in causa Ola Channel e Pietro Don Marco. Voi chi vi paga, giustamente? Ma noi ci autofinanziamo. Quindi è tutto farina, sì, del vostro, sì, sacco. Esatto. E con estreme difficoltà, insomma, estreme difficoltà, chiaramente ci autofinanziamo, quindi in sacrifici, perché la maggior parte del gruppo, insomma, di Ola Channel fa altro nella vita, quindi ritagliamo parte del nostro tempo e risorse economiche per investire in questa attività. Ecco, Gianpaolo Colletti, ma sono sostenibili queste realtà? Nel senso che puoi fare il giornalismo d'inchiesta, va bene un servizio di utilità come quello di PN Box, dove si va a mettere una telecamera in un consiglio comunale, massima trasparenza, tutti possono vedere ad ascoltare. Però certo, fare le battaglie contro l'imprenditore che sta inquinando, quello è un altro paio di maniche. Qual è lo stato dell'arte dei finanziamenti? Beh, anche la telecamera in un consiglio comunale alla lunga negli anni può diventare onerosa. La sostenibilità è la nota dolente di queste esperienze. In realtà vengono accesi questi canali con poche centinaia di euro, tra dominio del sito, mezzi tecnici, telecamere semiprofessionali. La difficoltà è il mantenimento di queste esperienze. Molto spesso oltre il 50% di queste realtà vive di libere offerte da altri cittadini, quindi di collette all'interno dell'amministrazione comunale, ma fuori dai palazzi. Poche volte vengono finanziate dalle istituzioni. Alcune esperienze invece decidono di dare spazio a partner privati locali e quindi riescono a sopravvivere. Il tema della sostenibilità economica resta per queste esperienze un'incognita, però in realtà la missione sociale e l'apertura di questi temi che trattano diventa fortissima. Ecco, c'è un modello che diciamo vince, che insomma riesce a durare di più, che riesce a fare, a tenere più, a stare più sul territorio? C'è una formula che hai, guardando queste realtà un po' dall'alto? La formula produttiva migliore è quando si intersecano esperienze di finanziamenti privati con le offerte degli utenti. In realtà anche la formula del finanziamento da parte di una istituzione o di un comune potrebbe diventare pericolosa, perché in realtà poi la micro web TV dovrebbe restare imparziale. La forza di queste micro web TV è proprio questo essere imparziale, essere in realtà trasparenti al di sopra delle parti. Ecco, io volevo tornare a PN Box, perché loro hanno sdoganato una sorta di nuovo format, il progetto Comune Street. Ce lo può spiegare meglio? Ma diciamo, è anche questa una formula di, noi la chiamiamo di democrazia diretta, nel senso cerchiamo di collegare l'eletto con l'elettore, o con il potenziale elettore. Vale a dire, quello che noi facciamo con questo format molto, molto agile è quello di andare in giro per le strade con le nostre telecamerine e di andare a chiedere alle persone che passano per la strada se riscontrano dei problemi per quanto riguarda l'amministrazione locale, se hanno delle domande specifiche per le quali vorrebbero una risposta da parte degli amministratori locali, e eventualmente quali sono. Noi quindi è un cahier de doléance, cioè in video, cioè una sorta di luogo dove recuperare tutte le proteste, i piagnistei. Diciamo che molto spesso non si tratta di mere proteste, ma anche di richieste di chiarimenti, approfondimenti. Per esempio, non so, la differenziata è un argomento, quindi la raccolta differenziata dei rifiuti è un argomento molto importante che sta coinvolgendo ovviamente la città. Ci sono alcuni aspetti non chiari, oppure ci sono alcune cose che non funzionano, i cittadini chiedono questi chiarimenti. Ecco, ma Pordenone, il principale motivo di dissapore qual è? Ma, diciamo, in questo momento? Dal mio punto di vista devo dire che c'è una se uno vuole farsi del male prende una bicicletta e va in giro per strada. Quindi da un lato cerchiamo tutti di avere, e viene, diciamo, sbandierata una sostenibilità, e in tutti i modi si cerca di farci andare in bicicletta, dall'altro ci sono delle piste ciclabili che sono delle vere e proprie terreni minati che possono esplodere da un momento all'altro, nel senso che sono pericolosissimi. Però si sta bene a Pordenone, cioè se è questo il tema state bene. Mediamente si sta bene, mediamente c'è un'amministrazione che funziona, mediamente c'è anche un'opposizione che funziona sui grandi temi, credo che entrambe le parti funzionino. E credo che sia un terreno fertile per poter svolgere tutta una serie di cose, tra cui anche la nostra attività. La nostra è un'attività che veramente sta funzionando, sta prendendo piede, forse grazie anche a un terreno particolarmente fertile. Mi fa già fare la stessa domanda a Don Marco che mi sta guardando. La prima principale problema di Potenza non sono le piste ciclabili, no? No, anzi, abbiamo fatto un servizio, tra le altre cose, di recente, intitolato La città invisibile, richiamandoci chiaramente a Calvino, dove abbiamo tracciato una linea, insomma, che io definisco drammatica, sulla cementificazione selvaggia della città di Potenza. Quindi, drammatica. Drammatica, sì. Nova Lab 24. Sono le 16.33, Luca Tremola dal microfono, stiamo un po' sondando tutto l'universo popolo, anche se brutto dire popolo, però insomma è una generazione di videomaker che punta la telecamera sulle amministrazioni locali, su quello che non funziona. Adesso abbiamo in collegamento Corrado Germinario, buongiorno, del Fatto.net di Molfetta, buongiorno. Buongiorno a te Luca, ben ritrovato. Allora, adesso sentiamo un po' la tua storia nella scheda che ha scritto, che ha redatto Colletti. Corrado è un 28enne giornalista videomaker. Da anni su ilfatto.net racconta ciò che non va a Molfetta, città di 60.000 anime e 80 pescherecci. Corrado narra di aree dismesse, della mancata manutenzione del parco giochi di Ponente o dell'incendio della bancarella, forse legato al racket delle estorsioni. Corrado e il suo team non possono più riprendere da alcuni mesi e per intero le sedute del Consiglio Comunale. Una mozione votata dalla maggioranza ne impedisce le trasmissioni integrali. Quelli della Web TV hanno commesso l'errore di trasmettere in rete gli insulti e le bestemmie del sindaco rivolte ai banchi dell'opposizione durante un animato consiglio comunale. E così una Web TV scomoda è lasciata fuori dalle aule del comune, ma continua a vivere tra la gente, in rete e in città. Insomma, voi vi siete fatti sbattere fuori. Siete molto moderni in questo, cioè non so se ve ne rendete conto. Beh, diciamo che come molfettesi continuiamo ad essere a collezionare dei primati che non voglio definire assolutamente positivi, purtroppo. Beh, è successo questo a Molfetta e noi siamo, nostro malgrado, protagonisti di questa vicenda. Siete testimoni poi, su via. Ma guarda, io devo essere molto onesto, le immagini di cui parlava Giampiero nella sua scheda sono immagini che sono state estrapolate da una registrazione di oltre 4 ore di un consiglio comunale e che noi non abbiamo mandato come immagini estrapolate, ecco, noi abbiamo semplicemente riproposto l'intero consiglio comunale senza fare tagli. Poi il tam-tam della rete ha portato a recuperare quei 5 minuti di ordinaria follia in senso verbale del nostro sindaco e quindi poi con i vari motori di ricerca, con le varie email spedite tra i vari utenti, siamo diventati famosi per questo piccolo problema che poi ci ha... Comunque quello che abbiamo capito, abbiamo appena ricevuto un sms da Carpi che ci dice che anche là i consigli comunali sono trasmessi via webcam, sono noiosissimi, però in realtà non sono mica poi così tanto noiosi, cioè se succedono cose di questo tipo. Assolutamente no, anzi io inviterei l'amico di Carpi a venire a fare un salto ai consigli comunali di Molfetta, perché poi al di là di quello che è successo in quell'occasione sono interessanti. Certo, il nostro obiettivo non è tanto quello di diffondere soltanto il Consiglio Comunale per il momento in cui esso si realizza, in cui si verifica, ma per di creare un vero e proprio archivio, una documentazione che debba rimanere agli atti, perché le nostre registrazioni, oltre a essere trasmesse via web, venivano poi realizzate in DVD e fornite alla biblioteca comunale piuttosto che a tutti i partiti politici che ne facevano richiesta, o anche ai semplici cittadini, e tutto questo in maniera del tutto gratuita, quindi era un servizio alla comunità che andava al di là della semplice cronaca giornalistica. Ecco, ecco, ma come siete percepiti, nel senso, quando passi per strada a Molfetta, no, cioè, che cioè qualcuno ti riconoscerà o qualcuno ti indicherà o qualcuno... Senti, devo dirti la verità, noi abbiamo avviato questa esperienza della Web TV nel dicembre del 2007, il 5 dicembre del 2009 festeggiamo il nostro secondo compleanno, e quando siamo partiti, su spinta di Giulio Cosentino, che poi è l'editore della Web TV e diciamo è la mente di questa Web TV, avevo dei dubbi, perché Molfetta è una città dove fino a qualche anno fa esistevano tre emittenti televisive, numerosi organi di stampa locale, e quindi mi sembrava un po' troppo azzardato scegliere fare il passo dalla Web TV. E effettivamente all'inizio, quando ci presentavamo con la nostra telecamera e il nostro microfono, ci guardavano un po' di sospetto, perché non sapevano effettivamente chi fossimo, non sapevano se potevano tra virgolette fidarsi del nostro tipo di informazione, del nostro modo di fare informazione. Ecco, ma voi come vi presentate? Cioè, noi siamo il fatto.net? Assolutamente sì, noi siamo una testata giornalistica registrata regolarmente in tribunale, quindi abbiamo un nostro marchio, oltretutto affiancato anche a un cartaceo che viene distribuito sempre in città. Per cui sei un imprenditore, cioè Ci stiamo professionalizzando quella che è una passione iniziale. Ecco. Cioè, prima la TV, poi il giornale, poi il conflitto di interesse. assolutamente. Vai. Questa è buona. No, niente, adesso in città la gente apprezza il nostro lavoro, siamo passati da essere quelli scomodi a essere quelli ricercati, perché la nostra telecamera adesso fa opinione, e quindi tranne che nel... Cosa vuol dire che fa un milione? No, fa opinione. E, tranne che nel Consiglio Comunale, dove continuano a garantirci soltanto i 3 minuti di immagini per il diritto di cronaca, per il resto riusciamo ad entrare dovunque. Ecco, però rientreremo anche in Consiglio Comunale, è un obiettivo che siamo prefissati e ci riusciremo fino alla fine. Ecco, quanto costa tutto questo darsi da fare, diciamo? Senti, per quanto riguarda la Web TV soltanto, devo dire che ha dei costi veramente limitati, perché al di là dell'impegno personale mio e dell'operatore che mi segue e della tecnologia, che poi si limita a una semplice telecamera ed un microfono, non ci sono grossissimi costi. È anche vero che non ci sono nemmeno grossi ricavi, perché ancora si crede, almeno qui da noi si crede ancora poco anche nella sponsorizzazione e nel sostegno alla Web TV. È un progetto che noi stiamo portando avanti veramente dal punto di vista più sociale che imprenditoriale, e sinceramente non ci pesa farlo, perché comunque è una cosa che ci piace fare. Ecco, Colletti, ma quindi il futuro di queste emittenti via internet qual è? Quello di passare dal video alla carta e poi chissà? Lentamente si stanno professionalizzando in una logica multipiattaforma, dalla rete, e il paradosso, si passa spesso anche alla carta. C'è un'esperienza per esempio a Napoli realizzata nei quartieri spagnoli, si chiama Insu TV, una bella e agguerrita micro web TV ex Telestreet, che racconta spesso il proprio palinsesto pubblicando su carta ciò che trasmette online, e diffonde questi documenti all'interno appunto dei palazzi, appunto dei quartieri spagnoli a Napoli. In realtà però questi sono esempi di veramente moderni watchdog, e mi viene da dire, è vergognoso che il Consiglio Comunale di Molfetta abbia vietato la trasmissione in diretta delle sedute, anche perché la politica 2.0, la politica del domani, dovrà confrontarsi con questo esercito di cittadini videomaker. Tra l'altro, cioè, c'è anche da dire che molti politici stanno facendo un'operazione di questo tipo, soprattutto i locali, aprono il blog piuttosto che aprono il loro social network, e decidono semplicemente di traghettare la loro voce o i loro piani comunali in un altro mezzo. Tra l'altro, nei vari comuni c'era il sindaco riceve nel tale giorno alla tale ora. Oggi molti sindaci decidono di avviare un filo diretto in rete grazie a questi cittadini videomaker. Ecco, ma a livello invece di format, cioè per ora abbiamo ascoltato che sostanzialmente abbiamo visto che Hola Channel realizzano inchieste, no? Cioè, nel senso che pongono, intervistano le persone, cercano di fare emergere la notizia. PNBox fanno un'operazione un po' più sofisticata, che è anche quella di porsi a fianco delle istituzioni per fornire dei servizi. Nel caso di ilfatto.net virgolette, insomma, torniamo a un'operazione di militante da un certo punto di vista. C'è un algoritmo, c'è cioè un modo di descrivere queste realtà che è solo quello di poi far politica sul campo, di rendere dei servizi di democrazia digitale? Ecco, qui a livello di creatività siamo ancora lontani, nel senso che da un'analisi dei format che queste micro web TV realizzano, in realtà molto spesso si mutua dalla generalista, quindi spesso ci sono interviste doppie tra politici di schieramenti opposti, oppure c'è il video box, il più geniale, l'abbiamo detto in inizio trasmissione, è il telecitofono, il videocitofono adibito a video box cittadino a Reggio Emilia, però in realtà idee innovative su queste produzioni di cittadini videomaker ancora non se ne vedono. La forza però è uscire con la telecamera semiprofessionale, quindi leggera, che è costata magari poche centinaia di euro, e andare per strada in città a documentare ciò che accade. Questa è una forza che i media generalisti forse hanno perduto. Sì, perché tra l'altro cioè, replicare i vari Striscia la Notizia o i Gabibbo può essere un'operazione che lascia un po' il tempo che trova, nel senso che a quel punto si demanda tutto all'emittente tradizionale. Io adesso sto guardando Hola Channel che fa sì con la testa. Cosa pensa? Penso che diciamo il paragone oppure riproporre un modello delle televisioni insomma tradizionali come Striscia la Notizia, noi ci abbiamo pensato. Il problema però è che bisogna avere un pubblico numeroso per poter sollevare. Noi preferiamo invece fare il servizio anche scottante, con l'intervista scottante, magari sollecitare l'intervento della procura. Ecco, voi avete la possibilità di capire quanti vi ascoltano o quanti vi vedono, anzi? Sì, noi abbiamo questa possibilità. Devo dire che i numeri sono abbastanza confortanti per quello che abbiamo. Abbiamo quasi 15.000 visitatori al mese, che non è poco. Vanin, voi a Pordenone? Pordenone noi parliamo di al giorno, comunque ci stiamo arrivando al giro di boa dei 1.000, che per una realtà insomma locale come la nostra sicuramente è buono, soprattutto per il fatto che ogni mese più o meno cresciamo del 5%. Ecco, ma quello che volevo segnalare dal punto di vista dell'algoritmo di cui voi chiedevate prima, chiedevate da Paolo Colletti, noi uno piccolo ce lo siamo creati, se può essere utile, vale a dire secondo me. A mezzo minuto per dirmelo. Perfetto. Abbiamo costruito la nostra sede aperta a tutti, PN Box è frequentabile da chiunque, perché? Perché all'interno degli studios televisivi abbiamo inserito un ristorante. Ah, il live entrare. Avete scoperto, li fate anche mangiare lo spettatore. Li facciamo partecipare. L'altro giorno è venuta da noi l'onorevole Serracchiani per lanciare il suo appello per quanto riguarda il Partito Democratico e noi l'abbiamo accolta volentieri imponendo le nostre regole che sono queste. Non esistono giornalisti che si frappongono tra lei e gli elettori, ma esistono degli elettori che vengono qui nella nostra sede e lei dall'altra parte. Se lei si fa okay, fare domande direttamente alle persone, ok, lei ha detto ok e l'abbiamo fatto, e questo è il nostro grazie caso. Vanin, magari avete provato anche fortuna. Io ringrazio Vanin, ringrazio Colletti, ringrazio Germinario. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Con PlayStation 3 i film si guardano in streaming. Sony ha annunciato oggi di aver stabilito una partnership con Netflix che permetterà ai possessori della console, per ora solo negli Stati Uniti, di accedere via internet al catalogo e ai contenuti video senza costi aggiuntivi. Ma i Blu-ray CD-ROM servono ancora? Dall'Etna Valley arriva il Cellophane fotovoltaico. Un team di imprese high-tech di Catania e dell'Università Cittadina ha messo a punto una tecnica per creare superfici fotovoltaiche di spessore invisibile all'occhio umano, applicabili anche su plastica, perché prodotte a freddo. Guardare il punto del corpo che fa male aiuta a calmare il dolore. Lo sostiene uno studio realizzato da scienziati italiani e inglesi, pubblicato nei giorni scorsi su The Journal of Neuroscience. La scoperta, resa possibile grazie alla tecnica dei potenziali evocati laser, potrebbe aprire nuove possibilità nelle terapie del dolore. Certi argomenti tra genitori e figli sono tabù, come la matematica e le scienze. Piuttosto si parla di droga. È quanto emerge da un sondaggio di Intel Corporation, secondo il quale molti genitori si sentono più a loro agio a parlare con i figli di sostanze stupefacenti che di argomenti scientifici, in cui spesso sono impreparati. Come dire, certe cose da giovani le abbiamo passate tutti, anche essere bocciati in matematica. Allora, sorpresa sorpresa, le notizie sono offerte da Leopoldo Papi, che è arrivato a raggiungerci e che rivendica giustamente la paternità di news che hanno accompagnato finora la trasmissione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E che da domani non ci saranno più, no, scherzo. Da domani no. No, ci saranno. E come? Insomma, il nostro giornalista scientifico l'avete conosciuto, è quello del supermercato. Poi scriveremo sul Twitter la sua storia, ed è anche la persona che caccia per noi. Che genere di notizie ti chiediamo? Beh, ogni giorno facciamo, diciamo, notizie di diverso tipo, da notizie tecnologiche che riguardano il mondo di internet e dell'information technology a news interessanti dalla ricerca scientifica, un po' in tutti i campi. Ecco, il taglio qual è? Il taglio è quello, non è sorprendersi sul fatto che esiste un mondo come gli atomi, un mondo come i bit, ma cercare tutte quelle che sono le interconnessioni tra queste realtà. Quello che poi andiamo scrivendo spesso su Nova è esattamente questo, c'è un mondo digitale, c'è un mondo biologico che per certi versi si assomigliano, non sono chiaramente regolati dalle stesse leggi, però quantomeno hanno delle somiglianze esterne, vero? Esatto, in ogni settore ci sono, diciamo, delle ricerche e delle scoperte. Una pillola di saggezza, vai. Una pillola di saggezza, ascoltate sempre le news e cercate di tenervi informati su questi argomenti. Temi. Io ringrazio per Pietro Don Marco di Hola Channel. Prossimo scoop. Prossimo scoop, dimostreremo come la situazione a Melfi è più grave di quella che ci raccontano. Ah, ok. Mentre domani noi ci sentiamo sempre alle 16:05, più 16:05 che le 16. Il tema è il clima e il cibo, il clima, il riscaldamento climatico nel piatto, una puntata tutta da ascoltare. Clicca linear.it ed entra nella tribù. Linear, assicurazioni in linea con te. Vi ha presentato Nova Lab 24.